Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Che strana faccia che hai! Chissà cosa direbbe l'esperto che stiamo per sentire. Ciao Federico, buonasera a tutti. Siamo già ai titoli. Eh sì, perché il primo pezzo, diciamo, il nostro primo contributo è dedicato alla comunicazione non verbale. E poi andiamo in Africa per due cose molto diverse. Due progetti, sì. Uno è etologico, parlando della grandissima Jane Goodall e degli scimpanzé, e poi invece un progetto di informazione biomedicale, di informazione sulla strumentazione biomedicale, una roba un po' strana, ma dopo vedrete che è tutto chiaro. Via. Si parta! Vengono in mente quelle scene di film di mafia dove c'è uno che dice mi piace questa tua cravatta e in realtà gli sta dicendo che sta per ammazzarlo con la faccia. E questa sì, potrebbe essere una parte di comunicazione, cioè, non verbale. È gentile, sì. Devo dire che la comunicazione non verbale, che è appunto l'argomento che stiamo per trattare, praticamente comprende e coinvolge tutte le nostre attività. Infatti, adesso sto gesticolando come una pazza, esatto. Chissà che cosa direbbe Cristian Salomoni, che è qui con noi, insomma, questa sera. Buonasera Cristian, benvenuto. Buonasera a voi. Allora, lei intanto è vicepresidente dell'associazione ACOMVE, che è un'associazione internazionale che racchiude tutti i professionisti che si occupano di comunicazione non verbale, anche docente in comunicazione appunto non verbale in università. Lei è italiano, ma in questo momento si trova a Madrid perché appunto c'è tutto un percorso più specialistico e specializzato in Spagna. Partiamo magari dal definire che cos'è la comunicazione non verbale, perché magari non è chiaro a tutti. Certo, la comunicazione non verbale è tutto quello che facciamo senza il bisogno di dire una parola, quindi tutto quello che facciamo con i nostri gesti, la nostra voce, la nostra postura, la nostra espressione facciale, l'utilizzo delle nostre distanze, l'utilizzo degli spazi, tutte queste, diciamo, variabili ci danno tantissime informazioni sulla personalità della persona. Ma anche che situazione sta vivendo quella persona in quel particolare momento, certo. In un dato ambiente dice delle cose e magari corporalmente si capisce che ne ha dentro delle altre. Esatto, i buoni analisti in comunicazione non verbale quello che fanno è scoprire le incongruenze della situazione, del contesto. Una persona dice che è felice e invece, questo si utilizza in ambito medico, dice che è felice e invece non è vero e non è uscito da quella depressione che tanto l'ha portato a magari andare dal psichiatra o dal psicologo. Salomoni, forse dobbiamo specificare una cosa prima di appunto parlare delle applicazioni, nel senso che lei certamente sarà un grande osservatore, però non è che abbia un sesto senso particolarmente spiccato, cioè si basa tutto su base scientifica, ci sono dei dati, delle ricerche e alcuni comportamenti sono proprio come dire innati, riconosciuti, certo. Esattamente, io quello che dico sempre è che io non entro nella testa di nessuno, io non dico cosa pensa una persona, però sì posso dire come si sente ed è importantissimo. Mi baso sulle investigazioni scientifiche che sono state fatte dalle più importanti università di tutto il mondo. Questo sono tutte analisi scientifiche provate e, come dicevi tu, nell'ambito universale l'espressione facciale dell'emozione è dimostrato che è universale. Paul Ekman, che è lo psicologo che ha fatto queste investigazioni in Papua Nuova Guinea, dove dimostrò che l'emozione non dipende dalla cultura, come dicevano negli anni 70 gli antropologi e psicologi, ma ci sono emozioni, che in totale sono 7, che sono rimaste nella nostra storia filogenetica e per questo si sono uguali universalmente, possono essere studiate universalmente. Quelle di base. Ci sono culture che sono culture più espressive, come la nostra mediterranea, a differenza dell'americana, dove magari un professore che tocca la spalla dello studente può essere addirittura denunciato, mentre qua ci stringiamo la mano, siamo molto più permissivi. Però io parlo di espressione facciale, cioè, e lì invece la base è forte, è universale, è universale. Facciamo degli esempi sui contesti. Allora, una delle sue attività principali è quello di essere consulente, di collaborare ad esempio con le autorità, con la polizia in ambito criminologico. Ci fa qualche esempio? Sì, certo. Diciamo che Prima di tutto il comportamento non verbale non è mai una prova al 100% di colpevolezza. Il comportamento non verbale aiuta alle investigazioni più ortodosse, scientifiche, e io, essendo criminalista, utilizzo tutte le variabili necessarie, però è che in ambito investigativo è importantissimo, perché ci può far capire quale parti di una testimonianza o di un discorso non quadrano, o come riuscire ad avere una testimonianza la più, diciamo, giusta possibile. Per esempio, davanti alla perdita irreparabile di un figlio, quello che ci aspettiamo è l'emozione di tristezza, perché è universale. Quindi una madre che davanti alla perdita di un figlio non esprime questa emozione, a noi è un indizio esatto, per dire andiamo un po' in quella direzione, a indagare, perché potrebbe aver commesso il delitto, ecco. Esattamente. Potrebbe essere così. Infatti io nelle mie classi universitarie, durante le mie lezioni, porto casi italiani, come può essere quello di Anna Maria Franzoni, quello di Elena Ceste, perché i miei studenti spagnoli non conoscono questi casi, quindi non hanno, diciamo, il fattore di conoscerli per i giornali spagnoli. E quindi, tipo ad esempio con Anna Maria Franzoni, gli faccio ascoltare prima la voce, sì, e poi gli faccio vedere il video senza audio, per fargli domandargli secondo loro che cosa è successo a questa persona, e nessuno si avvicina a quello che potrebbe essere. Perché? Perché la voce è facilmente mascherabile, mentre invece l'espressione facciale, che è universale, questo soggetto non muove determinati muscoli che sono involontari, e queste sono vie del cervello involontarie che si muoverebbero quando invece la persona sente tristezza davvero. Guardiamo sempre anche la sincronizzazione delle cose, quando lo dice, se lo dice prima del gesto, se non lo dice prima del gesto, perché il bello della comunicazione non verbale è che la via è la comunicazione più sincera, più emotiva e più veloce. Per questo mi ricordo, quando ho analizzato Salvini in ambito politico, siamo in par condicio. No, cos'è che faceva Salvini, però sono curiosa. Oddio, senta, adesso. Salvini, quando diceva la frase l'immigrato è mio fratello, il gesto veniva dopo della parola, e quindi questa sincronizzazione non è sincronico, quindi non diceva quello che pensava. Un'altra cosa è la parte politica, però in quel momento non diceva quello che pensava. Di una comunicazione non verbale anche di Renzi, che ne fa? Quando dice che abbiamo abbassato le tasse, invece non è vero, dice Salvini. Quello difficile di Renzi è che è una persona troppo naturale, e questa naturalità a noi analisti in comunicazione non verbale non ci aiuta, diciamo, a scoprire un po' quello che davvero pensa. Però non è una cosa brutta che ha detto questa, per carità, siamo sempre in par condicio. No, assolutamente, okay. è una maniera di comunicare. Ecco, no, in qualche modo siamo arrivati al dunque, nel senso che abbiamo capito che la comunicazione non verbale racchiude un sacco di mondi ed è possibile osservarla praticamente ovunque. E poi, insomma, il suo lavoro si applica anche a tutta la parte, ovviamente, psicologica, come ci ha detto all'inizio, anche alla parte sentimentale, cioè si può capire se due persone stanno bene insieme anche dalla comunicazione non verbale, giusto? Certo, l'utilizzo magari delle distanze, dei gesti, e per questo si utilizza da tantissimi psicologi, per capire come magari la persona si siede quando vanno alla consulta psicologica, come si siedono, come si comportano, dove si siedono. È importantissimo, le distanze ci può far capire il grado di sintonia emozionale con l'altra persona, e questo si può utilizzare in tutti gli ambiti che possono essere educativi, in ambito politico, in ambito di mediazione, e adesso quello che stanno facendo è in ambito tecnologico, delle città intelligenti, come capire le variabili ambientali per generare un impatto positivo alla cittadinanza e misurare il grado di felicità con il comportamento non verbale. Ci lasci dire che fa un lavoro davvero affascinante, vero? Sì. No, poi grazie. Volevo dire, per milioni di anni non abbiamo parlato, insomma. Esatto. E abbiamo fatto facciazze. Però abbiamo fatto cose. Esatto. Va bene, grazie davvero Cristian Salomoni per questa esperienza. Magari ci risentiremo anche per analizzare chissà qualche altro comportamento, perché dopo è davvero interessante. Grazie, buon lavoro davvero. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Tutto quello che dovete sapere sul traffico adesso ve lo dicono. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. scimpanzé. Parliamo non proprio di scimpanzé, ma di chi ne conserva, diciamo, e chi studia l'etologia. E lo facciamo, diciamo, partendo dal top, perché quello che vogliamo fare oggi è descrivere l'attività del Jane Goodall Institute. Ecco, Jane Goodall è un profilo, una persona, un'etologa, che ovviamente gli etologi e chi fa ricerca sugli animali, sul comportamento conoscono degli animali, conoscono, è una star assoluta, star tra virgolette. Ovviamente ha fatto davvero tantissime attività e ha cambiato quasi anche il modo di relazionare i ricercatori con l'animale oggetto dello studio. La notizia, insomma, è che abbiamo anche una sezione italiana del Jane Goodall Institute, e qui con noi questa sera c'è la presidente Daniela De Donno. Benvenuta a Mebius. Grazie, buonasera. Allora, noi per formazione Jane Goodall la conosciamo bene, però forse alcuni ascoltatori non sanno, non conoscono bene il profilo, quindi magari lascio a lei brevemente delinearne qualche indicazione. Ma sì, Jane Goodall è nota in tutto il mondo prima di tutto per i suoi studi sul comportamento dello scimpanzé. Oggi è anche riconosciuta come una delle figure più importanti anche per le attività in difesa della natura e della biodiversità, oltre che della conservazione degli scimpanzé. Ma la sua notorietà è proprio legata al fatto che questa donna nel 1960 iniziò delle osservazioni nella foresta di Gombe in Tanzania sugli scimpanzé allo stato selvatico, e Jane con molta costanza e con un grande anche coraggio nella foresta ogni mattina all'alba si inoltrava per seguire questi animali e osservarli da vicino e comprenderne il comportamento del singolo e delle comunità. Qui è stata proprio una rivoluzione dal punto di vista dello studio etologico, perché gli animali non venivano più studiati in cattività ma in natura, e animali così particolari come gli scimpanzé in un ambiente anche non facile, ecco. Pensiamo che questo, tra l'altro, lo studio sugli scimpanzé del Parco Nazionale di Gombe, perché poi fu istituito come Parco Nazionale di Gombe, all'interno del quale c'è il nostro centro di ricerca, il Gombe Stream Research Center, dove Goodall avviò i suoi studi, da allora non si è mai smesso, tanto è vero che la ricerca sugli scimpanzé liberi nel Parco di Gombe è lo studio più lungo che sia mai stato condotto sui primati allo stato libero. E Jane Goodall allora fece quella che fu la prima rivoluzionaria scoperta su questa specie, e cioè che lo scimpanzé è in grado di utilizzare, come si dice, utensili, cioè strumenti. E la sua prima osservazione fu rivolta a questo scimpanzé, che lei poi volle chiamare David Graybird, che modificava un piccolo stelo, un piccolo ramoscello, per adattarlo specificamente all'ingresso in un foro nel termitaio, dove poi far salire queste con le termiti e mangiarle come uno spiedino. Da allora in poi tante altre scoperte scientifiche sono state fatte dalla stessa Goodall, per esempio che lo scimpanzé non è poi il buon selvaggio come si pensava, ma come l'uomo è in grado anche di essere crudele, di creare delle proprie vere guerre con le comunità limitrofe, ma anche l'importanza di quelle che sono le cure parentali, e quindi anni e anni di osservazione su quello che è il legame madre-piccolo, e sono gli esseri più simili a noi. Certo. Presidente, ecco, allora veniamo all'Institute, quindi all'Istituto, perché tutto questo prestigio ovviamente che la ricercatrice ha, poi ovviamente non è rimasto fine a se stesso o fine alla ricerca, si è ampliato con la creazione di questo istituto, che adesso ha una sede anche in Italia che lei rappresenta. Ecco, se ci può raccontare quali sono le attività di questo istituto. Il Jane Goodall Institute si è impegnato anche in altri progetti direttamente nelle aree adiacenti ai parchi dove ci sono oggi gli scimpanzé, e lo è con progetti concreti di sviluppo per le popolazioni locali, avendo chiaro il fatto che non è possibile tutelare e conservare, preservare la biodiversità senza collaborare e lavorare con le persone che condividono lo stesso ambiente. Ecco perché ad esempio il Jane Goodall Institute Italia ha un progetto proprio nei pressi del Parco Nazionale di Gombe, lo storico parco di Gengudal, per sostenere i bambini e i ragazzi orfani a causa dell'AIDS. Questo perché? Perché se noi miglioriamo le loro condizioni, se noi investiamo nella loro educazione sia ambientale ma anche proprio nella istruzione e formazione professionale, otteniamo cittadini più consapevoli e rispettosi del loro ambiente, in grado di capire il valore di quello che hanno, il valore delle loro risorse, il valore del loro territorio. E lo facciamo lavorando e investendo moltissimo. Abbiamo un programma di sostegno a distanza di questo orfanotrofio e abbiamo decine e decine di bambini, e oltre 100 ragazzi sono oggi inseriti felicemente nel mondo del lavoro con un mestiere vero e proprio, e sono i primi a essere interessati e desiderosi di tutelare gli scimpanzé della loro regione, del loro parco. Guardi, i progetti sono veramente tanti, sì. Tra l'altro diffusi praticamente in tutto il globo dall'istituto, che appunto ha sedi praticamente in tutto il mondo. Quindi magari io dico insomma agli ascoltatori che volessero tutte le informazioni complete di visitare anche il sito, che c'è il sito in italiano, che è www.janegudal.org, e lì c'è la possibilità ovviamente di sostenervi e di visionare tutti quelli che sono i progetti. La ringraziamo molto per la sua partecipazione e buona serata. Grazie a voi. Grazie, a presto. Grazie, buonasera. Il Centro Enrico Piaggio dell'Università di Pisa, molti lo conoscono per le sue attività in robotica, ha anche una grossa attività in area biomedica, e c'è un progetto che sta partendo adesso, che diventa operativo in queste settimane, che agisce in Africa, restiamo in questo grande continente, un progetto che ha come obiettivo l'informazione sulla strumentazione biomedicale. Ne parliamo con Carmelo De Maria, che è uno dei coordinatori di questo progetto. Si potrebbe andare da una sedia a rotelle ad una protesi, ad un dispositivo per infusione intravenosa, anche un gestionale per ospedali, quindi qualunque tipo di strumento serve per migliorare la salute dei pazienti. Quindi in generale proprio strumentazione per avere la possibilità che negli ospedali si possa fare terapia avanzata, però anche con una capacità di riconoscere quello che va fatto in questo tipo di paesi e che è possibile fare. Esattamente. Allora, in questo momento l'ingegneria biomedica, quindi la progettazione di questi dispositivi, è agli albori in Africa. È nata formalmente 4-5 anni fa con iniziative promosse anche dall'Università di Pisa, cioè iniziare a costruire i corsi di laurea da zero. Ed è così che siamo stati a contatto con tutta una serie di paesi africani che vanno dall'Etiopia stessa, al Sudafrica, al Kenya, allo Zambia, che hanno deciso di investire in questo settore per poter contemporaneamente risolvere i problemi di sistema sanitario e allo stesso tempo promuovere tutta una serie di iniziative economiche in settori in cui non c'è nessuna industria in molti di questi paesi. In molti di questi paesi, anche un'altra cosa importante da dire, siamo all'albori anche in fase di regolamentazione, quindi anche promuovere l'attuazione di queste norme, anche simili a quelle che ci sono in Europa, tipo le varie classi di dispositivi biomedicali, potrebbe essere un punto di partenza per migliorare il sistema sanitario in questi paesi. Giusto per fare un esempio, chi certifica che uno strumento può essere venduto? In Europa ci sono tutta una serie di organismi nazionali che poi seguono le direttive europee. In Africa ciascun paese sta installando le proprie norme, ma molte volte mancano questi organismi perché sono solo sulla carta. Non ci sono standard, non sono omogenei. Più che non sono omogenee è che, essendo paesi giovani, tra virgolette, da un punto di vista di welfare, molte volte ci si trova davanti a istituzioni pubbliche che seguono questi standard, ma ci sono tantissime cliniche private che magari invece si rifanno o acquistano strumenti da paesi in cui questi standard non sono rispettati come da noi. L'idea quindi è che si formino delle realtà di studio e ricerca in grado di mettere in moto una produzione locale. In grado di mettere in moto una progettazione locale prima di tutto, e in seguito anche una produzione. La progettazione è relativamente più semplice, nel senso che ci manteniamo ancora sulla carta e in fase di prototipo. La produzione, quindi industriale, tanti pezzi, tutti uguali, tutti che mantengono lo stesso standard qualitativo, è un po' più complessa naturalmente, complessa a qualunque livello, in qualunque stato, però la fase di progettazione, quindi progettare strumenti in grado di lavorare per bene in Africa, in condizioni magari climatiche, di umidità, diverse da quelle nostre, è un primo passo. È un primo passo. E soprattutto un'altra cosa importante è che alcuni bisogni sono a comune tra tutte le persone di questo mondo, però ci sono delle situazioni in cui, ad esempio, lo stile di vita in alcuni paesi rurali africani è diverso dal nostro e magari hanno delle necessità che per noi non sono così scontate. Oppure, per di più, noi siamo abituati ad avere la corrente elettrica stabile, lì magari ci possono essere delle sbalzi di voltaggio che possono bruciare gli strumenti, quindi progettare anche la parte elettrica in funzione di situazioni critiche richiede delle conoscenze sia della teoria ma anche della realtà locale. Della condizione specifica in cui ci si muove. C'è, credo, anche un problema di costi di queste apparecchiature. È chiaro che qui, per esempio, in Europa ci si può permettere un costo di progettazione, di costruzione, che magari in Africa non è pensabile. Allora, prima di rispondere a questa domanda bisogna precisare che l'Africa è enorme e si va da situazioni in cui lo stile di vita, ma la ricchezza pro capite è abbastanza elevata, a situazioni in cui lo stile di vita e la ricchezza pro capite invece è molto bassa, a zone addirittura di guerra, che in questo momento per fortuna è assente in Europa. Quindi è tutto un mondo davanti. Se noi ci concentriamo su quelli che sono i paesi più poveri, in cui le condizioni di vita sono un po' più difficili, è vero, progettare degli strumenti a basso costo richiede un enorme sforzo, ma è possibile, anche perché è vero che noi quando pensiamo agli strumenti elettromedicali pensiamo ad una risonanza magnetica, quindi grosse apparecchiature costose anche in Europa, ma esiste tutta una serie di dispositivi a basso costo, possiamo pensare a delle siringhe, a dei cerotti, a delle bende, a delle sacche per sangue, il cui costo di manifattura è estremamente basso, ma che vengono via via ricaricate sia perché c'è qualcuno che ci lucra, sia perché la certificazione per poter commercializzare questi prodotti, quindi essere aderente alle varie norme, è estremamente costosa. Quindi da un lato è vero, ci sono dei costi di produzione alti, ma da un altro lato è anche vero che c'è il cosiddetto effetto placebo, parliamoci chiaro. Un farmaco che costa 100 euro, secondo noi, fa più effetto di un farmaco che costa 1 euro, quando magari il principio attivo è uguale. Quindi anche lì ci sono strumenti e strumenti. Secondo noi è possibile sicuramente progettare per l'Africa e riuscire a mantenere anche dei costi di produzione più bassi mantenendo intatta la qualità. Cosa possiamo dire in 10 secondi? E niente, salutare e ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito fin qui. Basta. Basta. Buona settimana. A tutti e a tutte, ciao. Ciao.